Il 28 maggio 1926 i militari mettono in atto un colpo di Stato guidato dal generale Gomes da Costa, che instaura una dittatura che introduce immediatamente la censura militare sulla stampa e tutti i partiti politici vengono messi fuori legge. Il 7 febbraio 1927 viene attuato dai repubblicani un tentativo rivoluzionario nel quale si battono molti operai, che però fallisce e la dittatura attua una pressante repressione. Tutto iniziò con una rivolta militare che, a partire dalla città di Oporto, avrebbe dovuto espandersi in tutto il paese. Quando nel 1928 Gomes da Costa decise di abolire la censura, la destra portoghese lo estromise dal suo ruolo e lo sostituì con il generale Oscar Carmona, il quale rimase per 23 anni presidente della Repubblica. La censura quindi fu abolita solo per un giorno. Per tentare di migliorare la situazione finanziaria fu chiamato un giovane professore di economia, figlio di proprietari agricoli, cattolico integralista, autore di libri come La pace di Cristo nella classe operaia, militante di un gruppo che aveva come motto fede, studio e azione. Quest'uomo era Antonio de Oliveira Salazar, che nel 1932 diverrà primo ministro e quindi il dittatore fascista del Portogallo, che rimarrà al potere fino al 1968. Nel 1930 Salazar crea l'Unione Nazionale, che diventerà il partito unico legale esistente in Portogallo. Nello stesso anno viene promulgato l'Atto Coloniale, che sancisce i principi coloniali fascisti per le colonie portoghesi e che Salazar sintetizzò così: le colonie producano e vendano alla metropoli le materie prime e con il ricavato di questa vendita comprino prodotti manufatti. Le colonie del Portogallo degli anni 30 erano l'Angola, il Mozambico, la Guinea-Bissau, Capo Verde e São Tomé e Principe in Africa, Timor, Macao, Goa, Damau e Diu in Asia. Uno degli effetti economici di questa politica coloniale fu l'intensificazione delle monoculture. In gran parte del Mozambico si obbligò a coltivare cotone. Certe zone dell'Angola dovevano produrre caffè, altre sisal o canna da zucchero, a discapito delle popolazioni locali che rimasero senza i prodotti base dell'alimentazione tradizionale. In teoria, gli abitanti delle colonie potevano richiedere la cittadinanza portoghese, ma tale concessione dipendeva dall'arbitrio delle autorità portoghesi, che avevano la facoltà di giudicare corretto o meno, sia dal punto di vista morale che politico, il comportamento del richiedente. Se ad esempio il richiedente avesse fornito alle autorità importanti informazioni per la repressione dei movimenti politici, avrebbe immediatamente ottenuto la cittadinanza portoghese per servizi prestati alla patria. Così, ancora negli anni 60, la percentuale di africani delle colonie che non possedevano la cittadinanza portoghese era in Angola e Mozambico circa il 99%, ed ancora nel 1960 si permetteva ai padroni europei di usufruire del sistema del lavoro forzato imposto agli indigeni. Ascoltiamo quindi di Jabux Angola. Yes, Rasta. All them black people that belong to Africa. So I saw we are keep the giddy on the hat. Aile! Yeah. Oh. Hey. Kalangola. Kalangola. Upon my African Gola. Kalangola, Kalangola, Kalangola, Opashishamalangola, Kalangola. Me burn the fire from Babylon, nah take no chat from Babylon. Cause a youth corrupt, you get a youth, we do no wicked act, we no Babylon. When me walk, I trample down Babylon. Talk and ride down Babylon. Who know what we say with your clams and plants? Welcome chopping the man who no think who no can come take Mama Africa from me again. No, who no can come take Mama Africa from we again. Who no think who no can come take Mama Africa from we again. No, who no can come take Mama Africa from we again. Two religion, you abandon a Lebanon. Pick yourself and a blame Afghanistan. We do no tricks and cons, implement a plan. Then you go dig down Saddam. We see you a draw nearer and nearer. But the Isle Mama got now go share ya. Oh, me now get scared. We defend the square. Oh, Pasha Shamalongale, you no can come take Mama Africa from we again. Who no think you no can come take Mama Africa from we again. No, no can come take Mama Africa from we again. No think no can come take Mama Africa from we again. Them no like when we are dinner deals. Them want we stay here for pay them bills. When you think say you save, you are save little cabbage. Them alone account off the mills. It's an authentic reggae beat. Let me skank off the shoes off of my feet. I get three Peter Touch, two Bob Marley, and the little berry sound sweet. Who no can come take Mama Africa from we again? Who no think who no can come take Mama Africa from we again? No, who no can come take Mama Africa from we again? Who no think who no can come take Mama Africa from we again? So the bingy man a call Angola, call Angola, up on Mama Africa Angola, call Angola, call Angola, call Angola. Pasha Shamalang Gola, Kalang Gola. Me burn the fire from Babylon. Now take the chat from Babylon. Cause are you corrupt, the ghetto youths. We do no wicked up, we no Babylon. When me walk, I trample down Babylon. Talk and rat down Babylon. Who no what ways they have with your clans and plans. Welcome trapping the man who no think who no can come take Mama Africa from we again. Aile! Aile Salassia, you know? The vices and trolls on a fire Asia. Nel 1931 e nel 1932 si hanno grandi lotte operaie per aumenti salariali e contro la disoccupazione. Scioperano per un mese gli operai delle costruzioni navali di Lisbona e per tre mesi i marittimi di Setúbal. Scioperano anche gli operai della Compagnia Nazionale di Navigazione, i portuali, i lavoratori del vetro di Marigna Grande. Anche gli studenti universitari manifestano contro il regime, in particolare alle facoltà di legge e di medicina di Lisbona, scontrandosi con la polizia. Negli scontri verrà ucciso uno studente. Anche nelle campagne avviene una mobilitazione dei braccianti e dei contadini contro la disoccupazione e i bassi prezzi dei prodotti agricoli. Nel 1932 Salazar promuove e fa approvare con un plebiscito truccato la Costituzione Corporativa. Parallelamente nasceva il Centro di Studi Politico-Sociali per studiare l'adattamento al Portogallo del sistema corporativo fascista italiano. Al vertice dell'organizzazione stabilita dalla Costituzione c'era il Consiglio Corporativo e la Camera Corporativa. Ogni forma di rivendicazione operaia veniva considerata come un crimine contro la nazione e lo Stato. In caso di sciopero poteva usare tutti i mezzi stabiliti dalla legge per costringere gli scioperanti a tornare al lavoro e si stabiliva per coloro che incitavano, favorivano e organizzavano uno sciopero una pena detentiva dai 2 agli 8 anni, prolungabili con le cosiddette misure di sicurezza. Le misure di sicurezza potevano aumentare la pena detentiva di 1 anno o di 3 anni all'infinito, a discrezione della polizia politica, la famigerata PIDE. La Costituzione inoltre negava il diritto di associazione e proibiva qualsiasi espressione e diffusione di dottrine sociali contrarie ai principi corporativi. Alla fine dello stesso anno venne emanato anche lo Statuto Nazionale del Lavoro, che si ispirava alla Carta del Lavoro di Mussolini. In pochi anni Salazar riuscì a riequilibrare il bilancio e le finanze e a stabilizzare la moneta. I paesi stranieri iniziarono a fare investimenti in Portogallo. Questo risultato fu raggiunto però sulla pelle del popolo portoghese, costretto al più basso tenore di vita di tutta l'Europa. Per fare ciò fu creato un apparato repressivo. Le forze di polizia raggiunsero un totale di 35.000 unità in un paese di circa 7 milioni di abitanti, divise in polizia di sicurezza pubblica e guardia nazionale repubblicana. Ma lo strumento repressivo più efficace del regime era la polizia politica segreta, costituita nel 1927, che dal 1945 fu chiamata PIDE, Polizia di Vigilanza e Difesa dello Stato. La PIDE aveva poteri illimitati, ad esempio era necessario il suo consenso per l'ammissione di un cittadino ad un impiego pubblico o a una borsa di studio o per ottenere il passaporto e inoltre era facoltà della PIDE arrestare chiunque e compiere perquisizioni senza mandato dell'autorità giudiziaria. Gli arresti fatti dalla PIDE erano regolati da decreti legge che permettevano di mantenere in carcere qualsiasi persona senza un'accusa formale per un periodo di 5 anni, prolungabili per periodi successivi di 3 anni, finché gli individui incarcerati saranno considerati pericolosi. Ai detenuti venivano inflitte torture fisiche e psichiche che i membri della PIDE avevano appreso dalla Gestapo nazista. Kramer, infatti, della Gestapo, diresse a Lisbona dei corsi di specializzazione. Inoltre, il regime aveva creato nel 1936 una milizia paramilitare volontaria, la Legione Portoghese, sul modello delle SA naziste e della milizia fascista, che si specializzò nella caccia ai comunisti. Lo stesso anno viene anche fondata l'organizzazione fascista giovanile Gioventù Portoghese. Nonostante questo enorme apparato repressivo, nel 1934 fu creato quello che fu chiamato il primo Soviet durante la rivolta di Marigna Grande, che ebbe luogo il 18 gennaio 1934. Fu in realtà uno sciopero generale e un tentativo insurrezionale, purtroppo rapidamente represso. La rivolta fu organizzata dalla CGT, il sindacato anarchico, e da alcuni dirigenti comunisti, che però furono criticati dal segretario del Partito Comunista Portoghese per il carattere anarcoide, come venne definito, della rivolta, che proclamò uno sciopero generale a livello nazionale per protestare contro la promulgazione di nuove leggi corporative che avrebbero ulteriormente limitato i diritti dei lavoratori e posto i sindacati sotto il controllo statale. La città di Marigna Grande, un importante centro industriale del vetro, fu l'epicentro più importante del tentativo insurrezionale. Qui i lavoratori armati occuparono le fabbriche, si scontrarono con le forze dell'ordine e l'esercito e si impadronirono della città. L'obiettivo era quello di rovesciare il regime e instaurare un governo basato sui principi del socialismo libertario. Ma Marigna Grande fu l'unico luogo dove l'insurrezione assunse un carattere rivoluzionario. In altre città lo sciopero generale ebbe minor successo e fu rapidamente soffocato. Le forze armate e la polizia reagirono con estrema brutalità. La rivolta di Marigna Grande fu schiacciata nel giro di poche ore. Numerosi lavoratori furono arrestati, alcuni rimasero uccisi e molti furono deportati nel nuovo campo di concentramento di Tarrafal a Capo Verde. La CGT fu praticamente smantellata, ponendo fine al sindacalismo rivoluzionario e anarchico in Portogallo per molti anni. Ma la rivolta di Marigna Grande pur fallendo, ebbe conseguenze significative ed è ricordata come un importante momento di resistenza al regime salazarista e un simbolo delle lotte operaie in Portogallo. L'8 settembre 1936, mentre iniziava la guerra civile spagnola, si verificò una rivolta degli equipaggi di due navi da guerra contro l'intervento di Salazar in Spagna, in appoggio a Franco, diretta dalla ORA, l'Organizzazione Rivoluzionaria Armata, che pubblicava il giornale Il Marinaio Rosso. Ma anche questa rivolta fallì. 10 marinai furono uccisi ed altri 60 vennero condannati a 800 anni di carcere e deportati a Tarrafal. I falangisti spagnoli mantenevano durante la guerra civile un'ambasciata segreta in territorio portoghese e gli ufficiali dell'aviazione tedesca, inviati da Hitler in soccorso a Franco, si esercitavano in Portogallo. Il governo portoghese forniva viveri e vestiario. Inoltre, il regime portoghese inviò in Spagna, a fianco dei fascisti italiani e dei nazisti tedeschi, dei combattenti, dei quali ne morirono 6.000. Ascoltiamoci ora di José Mario Branco, Eu vi este povo a lutar. Thank you. se meu marido, vê-se te arrebitas, este peixe podre só é bom para os parasitas. Só a nosso mando é que há liberdade, vamos lá lutando para mudar a sociedade. Bandeira vermelha, venha levantada, ai minha senhora, que linda desfilada. Nel 1941 gli studenti di Lisbona scioperano contro l'aumento delle tasse di iscrizione e a novembre scioperano gli operai tessili di Corviglia. Nell'ottobre e novembre 1942 ci fu un'ondata di scioperi in Portogallo che coinvolse 20.000 operai delle costruzioni navali e di altri settori industriali di Lisbona. Altri scioperi si ebbero nel luglio e agosto 1943, con la partecipazione di 50.000 lavoratori di diverse città, che portarono a migliaia di arresti e la polizia occupò diverse aziende e località. Per iniziativa dei comunisti, alla fine del 1943 venne creato il MUNAF, il Movimento dell'Unità Nazionale Antifascista, a cui partecipavano anche liberali, repubblicani e socialisti. L'8 e il 9 maggio 1944, 25.000 operai e braccianti scesero in sciopero nei distretti di Lisbona e Santarém. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il Portogallo, diviso fra la secolare alleanza con l'Inghilterra e la politica filonazista del suo regime, adottò quella che venne definita come neutralità collaborazionista. Dal 1943, quando la vittoria degli alleati iniziava ad essere evidente, Salazar consolidò l'alleanza con l'Inghilterra e le cedette una base militare nelle isole Azzorre, pur non rompendo mai definitivamente con Hitler, tanto che il 4 maggio 1945, quando il dittatore nazista si suicida, Salazar proclama il lutto nazionale. Salazar si guadagnò quindi la fiducia dei paesi occidentali per il suo anticomunismo e nel 1949 fu tra i paesi fondatori della NATO su invito degli Stati Uniti e venne incluso nel piano Marshall. Grandi manifestazioni di popolo, soprattutto a Lisbona e a Oporto, si svolsero l'8 e 9 maggio 1945 per festeggiare la fine della guerra e la vittoria sul nazismo. Altre grandi manifestazioni si tennero lo stesso anno, il 5 ottobre. Nel 1946 si tengono in diverse località del Portogallo delle marce della fame contro la mancanza di cibo. Scioperano gli operai tessili di Corviglia. Grandi manifestazioni si svolgono a Lisbona e a Oporto. Nell'aprile del 1947 scioperano per 21 giorni 20.000 operai delle costruzioni navali e di altri settori dell'industria di Lisbona. Lo sciopero si estese poi ad altri centri del paese. Il regime reagì con centinaia di arresti e deportazioni a Tarrafal, ma alla fine gli scioperanti ottennero la vittoria sulle loro rivendicazioni. I giovani africani nelle colonie, nel dopoguerra, iniziarono la lotta clandestina per l'indipendenza dal Portogallo. Il movimento per l'indipendenza delle colonie portoghesi nacque con un'impronta rivoluzionaria di sinistra. Le organizzazioni che poi crearono furono il PAIGC, Partito Africano dell'Indipendenza della Guinea di Capo Verde, fondato nel 1956, l'MPLA, il Movimento Popolare per la Liberazione dell'Angola, ed il Frelimo, il Fronte di Liberazione del Mozambico, fondato nel 1962. Questi movimenti presero contatto e collaborarono con l'opposizione antifascista portoghese. In particolare gli studenti delle università di Lisbona e Coimbra instaurarono un proficuo scambio con i giovani nazionalisti africani come Amilcar Cabral, Agostinho Neto, Mario de Andrade e Marcelino dos Santos. Nel febbraio 1952, a Lisbona, gli studenti organizzano delle giornate di protesta contro la NATO. Molti di essi vengono espulsi dall'università e sottoposti ad inchiesta. Contemporaneamente, 3.000 braccianti dell'Alentejo scioperano per aumenti salariali. Nelle colonie veniva ancora imposto il lavoro forzato. Nel Mozambico esisteva un traffico ufficiale di oltre 400.000 africani destinati alle miniere della Rhodesia e del Sudafrica. Nel febbraio 1953 nell'isola di São Tomé vengono massacrati oltre 1.000 indigeni quando il governo volle imporre il lavoro forzato. Il 1 maggio 1954 migliaia di lavoratori scioperarono in tutto il paese. A Oporto entrano in sciopero 1.600 operai tessili. La repressione è pesante e 30 persone vengono arrestate, ma la lotta dei tessili risulta vincente. A Lisbona e Corviglia la polizia circonda diverse fabbriche. Nell'Alentejo vengono arrestati decine di braccianti. A luglio ci furono altri scioperi dei braccianti con manifestazioni e scontri con la polizia. A Balezao, in una manifestazione di protesta, la bracciante comunista Catarina Eufemia viene uccisa a colpi di mitragliatrice dalla polizia, mentre è alla testa di un corteo di protesta. A luglio, centinaia di soldati a Evora si rivoltano contro l'invio in guerra nelle colonie di Goa in India. Il 1 maggio del 1956 vengono organizzate manifestazioni e scioperi a cui partecipano migliaia di operai a Lisbona, Corviglia, Grandola ed in molte altre città. Lo stesso anno gli studenti organizzano forti proteste contro il tentativo del governo di sopprimere le loro associazioni. Anche a gennaio del 1957 avvengono grandi lotte di massa degli studenti a Lisbona e a Coimbra, contro il decreto legge che vuole interdire le associazioni studentesche. Alle elezioni del 1958 si presenta come oppositore al rappresentante del regime il generale Delgado, direttore dell'aviazione civile, che aveva partecipato al colpo di Stato del 1926, ma che ora si presenta come candidato dell'opposizione democratica. Nel 1958 vengono realizzate enormi manifestazioni in appoggio al generale Delgado. 200.000 persone sfilano ad Oporto, 300.000 a Lisbona e decine di migliaia di persone in altre città. Il regime falsifica i risultati delle elezioni e per il generale Delgado risultano solo il 22,5% dei voti. Decine di migliaia di persone partecipano a scioperi e manifestazioni contro la truffa elettorale. Ad aprile 1959 inizia uno sciopero che durerà 70 giorni dei pescatori del nord del paese, che nonostante la dura repressione e decine di arresti si concluderà con una vittoria. Anche nel 1959, il 1 maggio, ci sono scioperi e manifestazioni soprattutto nel sud del paese. Ed ora ascoltiamoci di Luis Cilia, Portugal resiste. Mandaste-me o direito à vida, mas eu vivo. Mandaste-me prender, mas eu sou livre. Que não pode morrer, não pode ser cativo. Quem pela pátria morre, só por ela vive. Vi os campos florir, mas não ouvi raparigas cantando em nossas eiras. Nossos frutos eu vi lavar e vi na minha pátria. as garras estrangeiras. Vi os velhos e os meninos assentados nos degraus da tristeza, vi meu povo cismando. Vi os campos desertos, vi partir soldados, sobre o meu povo negros corvos vi pairando. E tu que do país fizeste a triste cela, tu que te fechas em teu próprio cativeiro, tu saberás que a pátria não se vende, e em cada peito, em cada olhar se acende este fogo, este vento de lutar por ela. Tu saberás que o vento não se prende, e não terás nas tuas mãos de carcereiro o sol que mora nas canções que nós cantamos, nem estas uvas penduradas nas palavras. Tu que servizas, pretendeste ou escravas, em silêncios de morte e de convento, tu ouvirás na língua que traíste palavras como um fogo, como um vento. Estas palavras com que Portugal resiste, estas palavras com que Portugal resiste, estas palavras com que Portugal resiste, estas palavras com que Portugal resiste. Il 3 agosto 1959, in Guinea, viene fatto un massacro nel villaggio di Pijiquidi, dove furono uccisi decine di lavoratori portuali dalla Pide. Fu questo massacro che diede inizio alla lotta armata per l'indipendenza della Guinea-Bissau. Il 1 gennaio 1960 viene organizzata una grande manifestazione antifascista ad Oporto, a cui partecipano 10.000 persone. Il 6 gennaio 1960 Mateo de Andrade, dirigente dell'MPLA, in una conferenza stampa a Londra afferma: «La situazione attuale nelle colonie portoghesi e soprattutto in Angola ci obbliga a concludere che il Portogallo sta precipitando gli avvenimenti verso un conflitto armato». L'8 aprile, 150 minatori di Aljustrey, in lotta contro i licenziamenti, occupano la miniera per 33 ore. 130 di loro saranno arrestati. Negli anni 60 l'università diviene il luogo più dinamico dell'antifascismo in Portogallo. Si susseguono manifestazioni, scioperi, occupazioni, promossi in gran parte dal movimento studentesco, in cui erano presenti dai marxisti-leninisti ai socialdemocratici, dai comunisti ai cattolici di sinistra. Si battevano contro il servizio militare e il fascismo, e per questo subivano sospensione dei corsi, arresti, interruzione del rinvio della ferma militare. Molti studenti andarono in esilio per sfuggire alla Pide. Alla fine del 1960 iniziarono una serie di manifestazioni popolari in Angola. Il governo portoghese dichiarò lo stato di guerra, iniziando una dura repressione ad opera della Pide e delle forze armate, che uccisero 20.000 civili e che sarebbero culminate con la distruzione con il napalm di 17 villaggi nella valle del Kansanje. Nel 1961 vengono stanziati nuovi ingenti fondi per la difesa e la polizia. Il Portogallo ha una vera economia di guerra, in cui più della metà delle entrate dello Stato sono destinate alle forze repressive nel territorio metropolitano e nelle colonie. Nel febbraio 1961 scoppia una rivolta in Angola, durante la quale viene dato l'assalto alle prigioni di Luanda e vengono uccisi molti coloni portoghesi nel nord del paese, oltre a 7 poliziotti. Il regime portoghese attua una pesantissima repressione, uccidendo più di 8.000 angolani. L'MPLA inizia la lotta armata poco dopo, lo farà anche il PAIGC in Guinea e il FRELIMO in Mozambico. Oltre all'MPLA agiva in Angola un'altra organizzazione, la UPA, i cui membri erano in maggioranza dell'etnia Bakongo, che oltre a popolare il nord dell'Angola si trovava anche nel Congo belga. Leader dell'UPA era Holden Roberto, che era sostenuto dagli USA e da Israele. La CIA riteneva che l'UPA fosse un movimento ostile all'infiltrazione delle dottrine marxiste, mentre l'MPLA era ritenuto un pericoloso movimento di tendenza marxista. Nel 1962 l'UPA, insieme ad un'altra organizzazione, creò il GRAE, Governo Rivoluzionario dell'Angola in Esilio, che verrà chiamato poi FNLA e che verrà successivamente riconosciuto dall'Organizzazione per l'Unità Africana. Iniziò quindi una lotta con l'MPLA. I Bakongo, più che combattere le truppe portoghesi, cercavano di distruggere l'MPLA, che consideravano dominato da tribù rivali. Secondo lo Stato Maggiore dell'esercito portoghese, 8.300 soldati portoghesi morirono in servizio in Guinea, Angola e Mozambico. Molto più difficile stimare il numero di morti dalla parte dei guerriglieri e dei civili africani. Secondo alcuni studi internazionali, le stime più prudenti sul numero totale delle vittime superano i 100.000 morti. Nelle colonie Lapide, che poteva contare su una fitta rete di informatori tra i coloni bianchi, arrestò e torturò migliaia di combattenti. A giugno 1961 i lavoratori di decine di città in Portogallo si rifiutarono di offrire una giornata di lavoro gratis per la guerra coloniale e centinaia di soldati si rifiutarono di partire per l'Angola. Insieme lavoratori e soldati manifestarono contro la guerra. Il 27 agosto nella base di Tancos disertarono 450 soldati. Il 1 settembre a Lisbona i soldati del 7 Cavalleria iniziano uno sciopero della fame contro l'invio in Angola. Lo sciopero si estenderà ad altre caserme. Ad ottobre, in Angola, un battaglione di soldati si rifiuta di combattere per diversi giorni. A dicembre, i 3.000 soldati portoghesi che occupano Goa, Daman e Diu in India si rifiutano di combattere le truppe indiane e per questo gli ufficiali del contingente furono imprigionati e destituiti dall'esercito, ma i possedimenti portoghesi furono annessi all'India. Il 4 dicembre 8 detenuti evadono dalla fortezza di Caxias, utilizzando per la fuga l'auto blindata regalata da Salazar ad Hitler. Le condizioni di vita dei lavoratori portoghesi diventano sempre più precarie. Oltre 100.000 emigrano ogni anno e la maggior parte di essi sono giovani che si rifiutano di andare a fare la guerra nelle colonie. Il 1962 rappresenta il momento più alto delle lotte in Portogallo fino a quel momento. Il 1 gennaio 1962 viene assaltata la caserma di Bejanel, nel sud del Portogallo, da un gruppo di ribelli antisalazaristi, ma l'occupazione della caserma fallisce. Il 31 gennaio 50.000 persone ad Oporto manifestano contro il fascismo e la guerra coloniale. Molti agenti della PIDE vengono picchiati dalla folla. Il 9 e il 10 marzo si tiene a Coimbra il primo incontro nazionale degli studenti in lotta. Vi partecipano 3.000 studenti. Il 24 marzo viene proibita la cosiddetta giornata dello studente. La polizia tenta di invadere la facoltà di legge ma viene respinta dalle barricate. Il 7 aprile si riuniscono 6.500 studenti in assemblea. Decretano il lutto e lo sciopero che durerà due mesi. Una marcia del silenzio, a cui partecipano migliaia di giovani, viene dispersa violentemente dalla polizia, con numerosi arresti e feriti. A Coimbra, durante una manifestazione di 3.000 giovani, la polizia uccide uno studente. Molti vengono feriti e arrestati. Ad Oporto, il 24 aprile, 500 persone protestano davanti a una caserma della polizia contro l'arresto di 15 dimostranti. Vengono attaccati con i mitra. Due vengono uccisi e alcune decine vengono feriti. Il 28 aprile la polizia spara su 500 manifestanti ad Al-Jusrey, uccidendo due lavoratori. Il 1 maggio 100.000 persone manifestano a Lisbona contro il fascismo per lo scioglimento della PIDE e contro la guerra coloniale. Alcuni poliziotti vengono disarmati, altri vengono picchiati. Alla manifestazione partecipano anche soldati e marinai. Le forze di polizia uccidono 8 persone e ne feriscono 300. Grandi manifestazioni vengono organizzate in diverse altre città come Oporto e Almada. Altre manifestazioni si terranno l'8 maggio, anniversario della sconfitta nazifascista. La polizia spara sulla folla, causando 10 morti e a Oporto la polizia, con uno spiegamento enorme di forze, presidia con i carri armati le strade della città. Durante i mesi di maggio e giugno, 350.000 braccianti ottengono con una dura lotta la giornata lavorativa di 8 ore. Il 28 maggio a Setúbal manifestano 5.000 persone. Lo stesso giorno a Lisbona, i soldati del Quinto Cacciatori rifiutano i pasti chiedendo la smobilitazione. Gli ufficiali ordinano ad altri soldati di arrestarli, ma questi si rifiutano di eseguire l'ordine. A maggio, in Angola, i paracadutisti si rifiutano di compiere una missione loro ordinata. Il 20 giugno, a Lisbona, centinaia di studenti manifestano davanti al carcere dell'Aljube per chiedere la liberazione dei loro compagni detenuti. Vengono violentemente caricati e quindi si dirigono verso il centro della città dove continuano gli scontri. La stessa cosa avverrà ancora il 28 giugno. Il 24 giugno centinaia di soldati del battaglione telegrafisti chiedono l'immediata smobilitazione. Davanti alla caserma si riunisce una folla di dimostranti che appoggia la protesta dei soldati. Nel mese di novembre si svolgono diverse manifestazioni di giovani in tutto il Portogallo contro il regime, le guerre coloniali e la repressione. La polizia uccise diversi dimostranti durante gli scontri. Il 13 novembre viene costituito l'FPLN, il Fronte Patriottico di Liberazione Nazionale, con l'obiettivo di combattere il regime di Salazar. Dell'FPLN facevano parte i comunisti, i socialisti e i repubblicani, che operavano in clandestinità o in esilio. Tra i suoi membri fondatori vi era il generale Delgado. All'inizio degli anni 70 il Partito Comunista fu espulso dal fronte e ne assunsero la direzione le BR, le Brigate Rivoluzionarie, che iniziarono la lotta armata contro il regime portoghese. Gli ultimi mesi del 1962 furono contrassegnati da scioperi e ribellioni di soldati in Angola e da uno sciopero della fame nel carcere per detenuti politici di Peniche, alla foce del fiume Tago, un vero e proprio campo di concentramento in stile nazista, in cui una squadra di guardiani scelti fra i prigionieri manteneva l'ordine a colpi di scudiscio. Finisce qui la prima parte di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte, dedicata alla rivoluzione dei garofani in Portogallo. Alla prossima!